abbi i pomodori, cazzo. Vabbè, sto uscendo, sì. Sempre qua, socio. Dai, dai, allora l'antenna la lascio così, Gio Mario, me la continuta. No, vabbè, dai, deve venire Ettore, un giorno lo invito per il caffè. E ha detto, così mi dà dei consigli di come fare. Adesso vieni. No, un giorno, dai. Ah, è stazionario i quartieri anni. 2-2. Un po' troppi sono, però. Basta fare passaggi in corte o se c'è di niente. Ah, ma non scalda, Ah? Ho detto che non scalda. Allora tranquillo, dai. Allora tranquillo. Come sta uscendo? Bene, Gio Mario, bene. Aspetta per un po' se aumento, Aspetta, E va bene, la porno scala, sì. Ma forte la radio. Va bene, Gio Mario, noi siamo forte e forte, va bene. Abbastanza chiara. È quello che conta, hai capito? Aspetta, perché sto provando un microfono per amplificare, ma evidentemente non amplifica, dai. Ah, ma va bene, guarda, fida. Aspetta, abbassa. Ecco, allora lascio così, va bene, dai. Ma va bene, Gio Mario, io vabbè, non ho niente da regolare, al massimo. Beh, io ce l'ho al minimo, perché se no disturbo, se lo metto al massimo disturbo io, capito? Televisione? A me però, Ficcia, ma come mai? Per amplificato sì, normale no. Io a casa... Gio Mario, la mia antenna non è che sia molto alta, non disturbo niente, zero. Con la faie, nulla, è pure amplificata. Perlomeno non si è lamentato nessuno. Nemmeno qua si è lamentato nessuno, però disturbo a me, capito? Vabbè, nemmeno a me, perché c'è gente lì che la tenna vecchia, vecchia, ma proprio vista di 30 anni fa. Vabbè, perlomeno, adesso non lo so. Attimi, adesso sta guardando per se disturbo. Prima disturbavo, adesso non lo so da quando abbiamo piazzato l'antenna. Bene, non disturbavo. Adesso sto provando con il microfono per amplificarla, vedere un po' se entro, capito? Adesso sta guardando per vedere un po'. Aspetta, Gio Mario, mi ha mandato un video, Luca, mi sa che vuole qualche festa, aspetta. Dai, va. Vabbè, Gio Mario. Com'era questo video? Cosa, Gio Mario? Ho detto, cosa ti ha mandato? Che video ti ha mandato, Luca? No, gli serve un cavo, tipo quelli del computer fisso. Ce l'ho se ne vuole, ma così come mi ha mandato lui, no, non ne ho di così. Questi devi essere messi dritti, questi qua sono messi verticali, i contatti. Ah, ecco. Infatti, perché c'è, serve per fare quella modifica dalla batteria al motore della bicicletta, capito? Vabbè, volentieri, ma non ne ho. Se ne vuole di questi computer, ne ho da regalartene. Ma infatti, ci vuole... Allora, la femmina, il maschio ci vuole, la femmina ce l'ho io. Ci vuole il maschio. Insomma, lì. Non si può fare una cosa, se non ce la fa, lo dà a me, ne sta con quello, il connettore di mezzo, quello del computer, dell'alimentatore, così mettiamo quel cavo lì, quel cavo che ho io, quello che c'ha lui, si fa la modifica, si leva quello e si mette quello là. Ah, così bisogna fare. Aspetta un attimo, mi mando un messaggio. Gio Mario, l'unica è così, io di computer ne ho, di alimentatori del computer ne ho da vendere, no, da regalare. Si stacca da lì e si mette là, nel coso tuo. Lo saprà lui cosa, come fare, capito? Io, se si può fare, bisogna farlo, dai. Vedrà lui cosa fare, là. Vabbè, certo. E poi, vabbè, tanto quel cavo lì non lo trovo. Tu non puoi fare come stai dicendo io. È facile farlo, sono tre spigli, ma poi lo smonta da... Sono due viti che lo tiene, quel coso lì, fra quell'ingresso della 220. Non è una cavolata a farlo. Se si può fare, già lo fa anche lui. Non è che non sia capace a farlo, capito? ha detto che si interessava, così che vediamo cosa ne c'è fuori, perché l'attacco del motore, quel pezzo di filo che c'è dal motore all'attacco, quello è la femmina. Ci vuole un maschio, dunque ci vuole un maschio, un maschio è un maschio e una femmina ci vuole. Ho capito Giovanni, mi stava spiegando, dai. E verrai a trovare il sistema, dai. Perché bisogna fare una cosa ben fatta, che non si nota nulla, che non si nota nulla, capito? È una cosa ben fatta, perché cazzo, se brucia il motore, cazzo, mi viene a buttare alla faccia la bicicletta, perché c'è il motore che la bicicletta. No, vabbè, salutarlo no, perché alla fine, come si dice, alla fine si mette nella posizione sua la batteria. Ah, già si trovano i sistemi, dai, già si trovano. Bisogna macinare un attimo. Io già ci sarei riuscito, solo che prendendolo così non saprei come fare. Ehi, ehi. Ehi, lasciamo fare lui, dai. Lasciamo fare lui e vediamo un po'. Perché domani mattina la dobbiamo piazzare, capito? Così che la proviamo. Sì, la sta facendo lui, mica tu non credi. Poi, in un caso, ho detto, io problemi non le ho, pezzi ne ho, si modifica per la notte. Io chiamare di cose, se li porto, li porto bene, se no li porto, Bene, ero credo, le cose si fanno bene, se no non conviene farle, no? Per farla male, male, lascio com'è, capito? Per cui, ma lo sai così, ma io l'avrei voluta vendere, però magari conviene a uno che qua, capito, magari in Sassari, oppure in qualche paese che perché a portarsela via, perché se no è ballarla, no, cazzo, veramente, un medicatore, ma lasso è lungo, capito, e viene male, cazzo, non voglio un macello, capito, per cui se riesco a modificarla va bene, me la tengo, me la uso, capito, tutto lì. Ma se nel caso che non sarà per modificarla, si mette nel gruppo, se poi vengo a parlare foto, te la metto nel mio gruppo e te la vedi. Quindi il prezzo, quanto ne vuoi, la vendiamo qua. Qualcuno di sicuro lo trovi per comprarla. Poi non lo so, in base a quanto è pagata, noi la vendi 50 euro in meno. Adesso vediamo un po' come cosa ne esce fuori con questa modifica. Dopo già si può rimettere a posto al punto suo, capito? Non è un problema per quello. Capito? Perché la batteria perché messa la dritta, la mettiamo con le carte, le tolgo il bauletto e a posto del bauletto ci metto la batteria orizzontalmente. Bene, legata bene con delle fascette quelle belle grosse. Abbiamo messo già un pezzo di gomma in modo di non graffiarla, capito? Sì, già non c'è problema, dai. Ma già te la fa Luca Politica. Ok. Ti aspetto 5 minuti. Vai pure. Hola. Cosa c'ha la radio? Buonasera. Sto trasmettendo Radio Venere, ci sente? Radio Venere? No, non prende, no. Ah, prende? Lu. Hai visto che non prende? L'ho visto, sì. Oh, andato, Cata, dove a Brille, Varisei? Beh. non c'è acqua. Prendo qua la doccia, brutta. Vabbè, dai, metto un altro mese senza lavarmi. Ah, sono una massa di bugiardi, cazzo, questi di Abbanoa. Sono una massa di bugiardi. Sì, aspetta quando entra l'acqua, attore, che ne entra bella marrone. Cazzo, ma guarda, con questi non c'è mai da fidarsi. Cazzo, che facevano dalle 9 alle 18. Sono i settiman cubiti e ancora non veniva. Pensa un poco, tanto so fauraggi. Tutto sessere così, tutto sessere è così. Ma a me non hanno avvisato. Il terzo mattina non ci ha mangiato, dalle 9. Cazzo. Ma qua è andata via che erano le 10. Pensa un poco. Sono una massa di bugiardi, perché adesso che aprivano l'acqua alle 18. Sono i getti manco vinti e leva ancora non si vede. Sono una massa di bugiardi, questi di Abbanoa. Lo so, cosa vuoi qua? Purtroppo poi se la fanno pagare sacche sale. Ma sono. C'è da sbugiardarli proprio. Mettere nel giornale che Abbanoa è una massa di bugiardi. Tutti quelli che sono dentro lì sono una massa di bugiardi. Sbugiardarli e buh. Ma per carità, lui ha sofferto. Di la rete si fa, mi chiama brutta. Io ho visto lì il telegiornale, non so, mi ricordo, un paese, l'acqua gialla, anche è intervenuto anche il sindaco. E cosa ha fatto? Ha fatto scendere l'acqua, no, da un contatore, verso in terra, la faceva scendere in terra e col cannello la bruciava. E tutti quanti con la bottiglia in mano, da 2 litri, acqua gialla, devo dire, gialla di un cinese. Cosa fa intervenire la magistratura subito? Dalle mani alla magistratura per che si gaggano sotto, i signori, e fargli pagare i danni. Ma ciò non va bene, cioè... Questa acqua gialla che non la puoi manco usare per cucinare, non va bene. Qua sì, non va bene, anche non manco fare un comodo. Come in mezzo ci sono politici che ci mangiano, e non fanno nulla, non fanno, ecco cosa è. C'è la in mano alla magistratura, vedi cosa ne sciaffura. Lo so, ma posso immaginare, cosa vuoi fare, purtroppo comanda niente, boh. È così, vabbè, dai, l'acqua ti serve, sono sicuro che arriva gialla comunque. Chi su è probabile, io l'altra volta quando sono salito su perché mi avevano mandato una bolletta, cazzo di 200 euro, gente che non avvia io campagna e coso, da è una piscina, non avvia. Dice come non è, l'ha consumata, io ho consumata. Dice adesso gli faccio vedere che porto tutto alla magistratura, facciamo indagare e poi vediamo cosa ne esce fuori. Ha pigliato, gli ha detto da sopra Gamene, mi ha fatto le conti, dice signor Pinelli, c'aveva ragione, era una bolletta falsa. Ah ecco, una bolletta falsa. Se a tutti fate così e quello paga, chi gli ritorna i soldi? Nessuno. Se fate così ogni volta, già mi posso fidare di questa cosa qua, sì. È arrivato così. C'è andata in TV, sì, non solo a te, c'è andata una fuggita, mia mamma li hanno curato questi bastardi, ma soldi che gli hanno rubato, poi gli hanno, vabbè, rateizzata perché ha avuto un problema, vabbè, non sono lì a elencare i problemi, comunque... deve pagare tramite la banca, cioè ogni volta che lei va a pagare deve pagare in più 3,50 euro, invece di quali dei bollettini, no, bastardi. No, a me sai cosa hanno fatto? Sono giunti i mani giambato, il contatore, mani giambato, ma così sicuro. Anche se avviene che gli raggiunti me li ho minacciati, che davo tutte le mani alla magistratura. La magistratura ci vuole indagare, no? Ma sono giunti i mani giambato, il contatore. Ma ha azzerato il conto delle bollette, ma è fatto d'ora da capo, mi è arrivato quasi 100 euro, ma se ne che non mi arrabbia giù, torra, sta sopra. Bisogna fare così, ma poi che ci siamo messi di ballo, io lo so, perché sono stato un po' di volte, troppa fila, per carità, lasciamo perdere. Poi una volta questa signora prima mi ha detto una cosa, poi me l'ha detto un'altra, ho detto, scusa la signora, ma mi sta prendendo per i fondi, gli ho detto, prima mi dice una cifra e poi un'altra e poi ci vogliono altri soldi, ma fattici di gabulista. E mi ha detto, ma mi sta minacciando, ma di tu non la sto minacciando, assolutamente, e lei non si sa spiegare, spieghi bene, così io capisco, invece no, poi mi ha detto una cosa, poi vabbè, da un'altra, l'ho detto, sto, mi ha detto un'altra cosa ancora, poi un'altra cosa ancora, ho detto, mettetevi d'accordo qua dentro, non so come fare adesso, che devo ascoltare? Allucinante. Sì, poi c'è nostro Ghicchivino, i minazzeggi che andrà alla magistratura e vede che pazzerà nel gotto. Ma che t'ammazza di tutti i casi fare, studiai, poteva rimanere al comune, questi casi non succedevano. Sì, ma il comune non ne ha gente che fa queste cose. E compreso, con un sindaco per niente. Sì, tra poco guarda pure il sindaco. Quindi bisogna farne rubura subito, per fare il giambà e farne buoni un usurio, e compreso che non si faccia comprare. Vabbè, lui qua, purtroppo, vabbè, io sono sicuro che loro fregano un bel disturbo, c'è la rimagna, pure il resto. Invece se la bulletta è 50 euro è della base di a 70, 80, conta ogni bulletta. Mi arrivi da 97 euro e spiccioli, mi arrivi da. Cosa che mai non mi arrivia mai a me sta cosa. La macina che non mi dà rabbia e sta sopra. E poi se ne approfittano, buffini. Ma come non se ne approfittano no? Che ne c'ha po'? Ah, 3, 4, 5, quanto a me che fate nel casino e vedi cosa ne c'ha fura. Scusi, baccalizzai, fanno schifo, fanno pagare l'acqua a forza. Ma io gli ho detto l'altra volta, se io devo pagare la bolletta, che mi date la bolletta ogni volta che manca l'acqua, me ne ritorna sporca, non mi devo pagare con l'acqua sporca io, te lo sto già dicendo, o fate qualche cosa, se no qua interveniamo subito con la magistratura e faccio qualche cosa, che qualcuno, il direttore già ci passa di mezzo qui, subito, subito. Io sto già dicendo, se mi fate pagare l'acqua sporca, sono cazzi vostri, a giudizio. Ma io dico, come fanno loro se ti fanno pagare l'acqua, bollette salate, poi l'acqua marrone, che non serve neanche per cucinare, cioè la stiamo utilizzando solo per buttarla nel gabinetto alla fine. E fatti una doccia quando è pulita. Adesso dovrebbe tornare a noi, no? E alle 9 dovevano staccare in un altro posto. Che non ho capito, se non fai tornare l'acqua a noi come fai a staccare in quell'altro posto? A me mi pare che sia tutta la ZDI così. Quindi no, non ha staccato per niente in altri posti. Stacchi là, attacchi a noi. Questa è tutta una presa per il culo per la gente. L'ho preso. Già lo so, già ti capisco, e ne so qualcosa io, dai, lasciamo perdere. Che non solo, che manca Porto Torres, Castelsardo, Alghero, no, Alghero, Sorso, niente che non manca. Vabbè, cosa mette la parola di Sassari, Parche? Tutte quelle cose lì, tutte nelle frazioni delle province, tutti quei posti lì manca l'acqua domani. Dice che stanno aggiustando le condotte per il coso. Ah, ma è tutta una bella da baruguru, mi dice. Tanti avrei buoni di conto a voi, mi so. Si condotti in sua consenso. Ma si paga adesso in più a capo. Ehi, io vi provo niente, ve l'ha già detto che minazzeggio, voce di minazzeggio. Non sto lì a guardare, no. Quando salgo, io salgo che... E passo subito, con 5 persone a Daredo che c'è come a me, fate nel casino e roba del stesso. A Sardini sono giunto il carabinieri, dice cosa c'è? E cosa c'è? Fate queste bollette. Bollette false che non so che io non ho mai pagato, ho sempre pagato, però questa cifra qua così alta non è mai venuta. Già sta da sopra in camminelli, la farata dice che il conto era azzato, che era sbagliato. Il carabinieri dice, se sbaglia ogni volta così a tutti quanti, eh? Cosa dovremmo fare noi? Arrestarvi? basta. Ah, ma avrà detto già nel tondo su carabinieri. Perché non c'è un po' di mafia lì, fida? Sì, ma un bel, non poco, no, un bel. Dice, qualche volta la macchina sbaglia. Ah, la macchina sbaglia. A me mi sembra che il computer, come lo usate voi, che sbagliate. Perché non è la macchina che sbaglia, siete voi che sbagliate. È quasi sempre. Vabbè, comunque, alla prossima faccio la denuncia al giudice, al carabinieri. Alla prossima faccio la denuncia. Vediamo cosa fanno questi signori qua. Come fanno a farti pagare quest'acqua gialla? È una cosa impressionante. Ma poi io dico, sicuramente cosa fanno? Hanno dei vasconi che magari oggi la danno pulita, domani per fartela pagare, commutano con la blu, con la sporca e te la mandano nei tubi. E fa 15 euro a te se fate la pagare. Aspetta, si l'ha già avvisati, chi che ha questa voce, chi l'ha avviso, vedi una gonna. Prima di salire in quella salita aveva un fosso umano che si è creato. Aspetta, guardate di aggiungere un po' di terra che qua. Che se cosa, se muore qualcuno lì, se ce ne intesa che qualcuno, passate dei guai seri passate. Cioè adesso lo facciamo. Alle 4 di gusci su fuso. Ancora non hanno fatto nulla. Ci mandano per aggiudurrà da di. Aspetta, ma allora non la sentite che c'è un fosso grande. Che la gente con la macchina, se si sbatte qualcuno al muro, voglio vedere chi è che paga. Ma dove rimane? Ho capito che stai dicendo, ci sono passato un po' di volte lì, perché dall'altra parte c'è quel coso in acciaio in terra, cosa è? Quella lamierone grande. Invece dall'altra parte c'è il fosso, comunque l'hanno riempito di terra. Sì, ma il comandante si può passare del torre, è sempre del coso, è per un vosso, che schifo va a passare in terra. Guardi di schifo a ricani, veramente, guarda. Poi, tasse tutte a fusti, e stanno continuando a fare, su, hanno schifo questa, le strade sono uno schifo le nostre, fanno pietà. Adesso, stamattina gli ho detto, vabbè, tanto non ve ne frega nulla a voi, se ci scappa il morto cosa ve ne frega. Adesso per quello lo metto in giornale e salgo in comune a parlare con il sindaco per queste cose qua. Ci siete un mese e più per un pezzo di condotta che avete fatto. Un mese e più ci siete. Aiuto, che questa cosa qua doveva essere fatta in 15 giorni, doveva essere fatto. E tanto vogliamo i baghi di voi, no? Infatti, baghiamo noi sì, paghiamo. Tata, agito. Un mese e più per fare una condotta, invece di essere in 15 giorni doveva essere fatto. Come che non ve ne frega nulla proprio a lavorare a rilento, fate bisogno di travaglio. Tu gli ha passato il tempo. Tanto, vabbè, a me è capitato di salire tu a fare il casino, però alla fine... E cosa fai? Sei lì a perdere tempo. Poi gli ho detto che mia madre non poteva venire, ci voleva mia madre per filmare, insomma, un casino, perché devo prendere il foglio, portarla a casa, farla filmare. Allora, a questo punto mi è convenuto portarmi dietro la mamma, se no è un casino, insomma, perdevo la fila. Qua, non ti dare. Qua una volta c'era questa signora poverina che gli è arrivata questa bolletta alta, gli hanno detto, lì signora l'ha consumata l'acqua, questa signora anziana che è da Zula, ma come fate a dire? E se stava anche sentendo male, avrà avuto questa signora 78-80 anni, mi ha detto, come fate a dire che io l'ho consumato che vivo da sola? Voi siete una massa di ladri, sole è sparito. Luca! C'è nessuno? Battisio! Signor Battisio! Gian Marie! Hola! Battisio! E chi è? Senti Sebastiano Bacchisio. Passami le voci. Cazza, bubu, non lo so. Fa l'appello. Io, tu e io. Buonasera a te. Buonasera anche a lì. Dove c'è nessuno? C'era Luca poco fa, verso le 7. Poi mi hai chiamato al telefono, se andate a chiamare non verrà più. Poi sei fuggito. Ah, dimmi una cosa, ma lei arrivi da te a te? No, niente ancora. Dice che ha preparato le 18. Boh. Ma non so paura, Giso. Aspetta. C'è l'ultima, è l'uggio. Sono massa di bugiardi, sono, catta. A prendere per il culo c'è sempre tempo questi. Mi sa che lavoro stanno facendo, capito? Mi sa che il lavoro non è più lungo. Ma guarda, c'hanno gli orari perché devono aprire da noi e chiudere non so dove. Va tutto nel giornale, animali. Marino, sì, sì. Stamattina l'acqua c'era stata quando... Aspetta Marino, sì, sì. Quando c'era poca acqua alle 6. Potevo vedere, ho detto, mi l'acqua c'era sta andando. No, no, no, allora voi invece... Ha fatto la pigliola e ha detto, ma prenditi l'acqua che se ne sta andando, e sapere un po' come di brubischi. Io ho fatto riempire la vasca ieri, mi sono fatto riempire. Certo, ma ogni volta che delle cose che ne devi consumare. 100 litri d'eva devi consumare, mia voce, che mancareva ai nomi. Brutto, brutto, ma secondo me. Ma perché stanno cambiando i tubi, ho visto la telefonia. Stanno mettendo i tubi nuovi. Ah, non è quello, no, non è quello lì, no. È il fatto che... Che cosa, quello... Dice che devono cambiare, non so, della condotta, un pezzo, dobbiamo in giambà, e Maraggio si rivenga, dobbiamo in giambassi. Sì, vuol dire non l'ho fatto in tempo. Vuol dire il lavoro è stato prolungato. Ma il fatto è che dovevano aprire da noi e dovevano chiudere in un altro posto. Tutto a giro dovevano fare, hai capito? Invece stanno prendendo per il culo, stanno prendendo perché hanno chiuso tutta la città l'acqua. Ma è a zona che è chiusa, non è tutta la città, no. A zona è chiusa. Per me hanno chiuso tutta la città, hanno chiuso. Non possono chiudere la zona. Ecco cosa è, perché dovevano aprire, alle 18 aprivano da noi, e poi alle 21 dovevano chiudere un altro posto, sino a domani mattina. Poi in un altro luogo, come aprivano lì, aprivano un altro, chiudevano un altro posto. Poi c'è, domani chiudono Sorso, Castelsardo, Porto Torres, Alghero e un'altra frazione. Hai compreso? Beh, ci stanno lavorando. E ma che le faccio questi lavori, ne ha vigna, ne ha manco. Voleva pulita e anche abbondante, invece va, è poca, è brutta. Sì, adesso per quando arrivi, sarà niente, sarà. Poi, in casa tutto, fango arriva. E l'altra volta, no, che mancata. Luna è arrivata, perché sentivo soffiare il rubinetto della cassetta. E mi sono compensato, ha già visto il lavandino, niente, gattrame. Perché così sempre che fanno, poi dicono che i figli non si intasano, ma tu adesso si intasano i figli, se c'è no non si intasano, oh, con le vanille da che arrivi, si intasano i figli e ne arrivi più poco, non arrivi, e arrivi garraggio sempre. E un poco si ferma là, un poco si ferma da voi, e sta a fare i dubbi. E poi deve trovare il ballo dubbista, l'idraulico deve travagliare, e se no cosa fate? A farsi già tutta l'Italia se no. Ma so che prima di arrivare a noi l'acqua c'è un filtro, e lì blocca tutto il filtro, blocca, si pone tutta un'annata un filtro, e arrivi sempre più poco da noi. Grazie, non la sta là, da Eva che vuoi lì. Buonasera. Buonasera Giulio, ehi, Graziano la Sarrada. E cosa vuoi fare? Siamo in mano dei delinquenti. Vabbè, cosa vuoi fare? È un gatto la vuoi vedere. Tanta chi dà ragione, mio, hai compreso che tanto bastano quelli balli bianchi che sai niente. No, però che avrei, no, che non manca mai, ma la verità è che ai punti è difficilissimo che mancherebbe. Ciao Gian Maria, ciao Bacchisi, ciao Dottore. Riprendi Gian Maria. Ma guarda che Gian Maria non c'è, mi siamo io e Bacchisi o solo eravamo. Adesso ci sei tu, siamo in tre. C'è Gian Maria, c'è, che avete parlato in due poca. C'è anche Gian Maria, Gian Maria. Gian Maria rispondi. No. Buonasera Giulio, ben ascoltato. Ma Gian Maria non ho sentito, boh. Siamo in tre briganti e tre somari. Avanti, giù. Ciao Bacchi, no, stavo parlando del senatore poco fa. E sentivo tutti e due. Io non lo so, non metto lingua. Dottore. Io non l'ho sentito per niente a Gio Maria. Eravamo io e tu parlando solo in bocca. Ma poc'anzi, quando sono entrato io, un attimo prima, stavate parlando in due, tu e Gio Maria. Ah, Bacchisio era parlando, non Gio Maria, Bacchisio. Gio Maria non c'è. Bacchisio era, no, perché si sa, quando si parla in due la modulazione arriva di confusa, no? A me mi era sembrato Gio Maria, allora vuol dire che ho sbagliato io, era Bacchisio anziché Gio Maria. E vabbè, dai, non fate niente. Comunque non te la prende, Ettore, tanto l'acqua già arriva prima o poi. Allora rischiano il fango, però già arrivi. Che dici di gabbia alle 18 e non abbiamo nulla. Aspetta, una massa di bauraggi e bu. Ma non si sa di gabbia alle 18, ma non si sa di quale giorno. Già siamo un giorno noi senza usare l'acqua per cucinare, perlomeno. Tu ti puoi immaginare, la usiamo solo per il bagno e per la luce e buh, e per lavare la lavatrice naturalmente. Però è uno schifo veramente, che una città come questa debba avere ancora questi problemi. Ah, addirittura tutta la Sardegna che va problemi con l'Eva qua a Banoa. Fin quando non si metteranno a posto tutte le rete idriche, qui sono tutti bravi, ma poi se ogni tanto se ne faccia un pezzo, allora si sospendono l'acqua per giorni. Babu, avanti Bacchi. Stanno facendo i vetri nuovi, all'altro ci stanno facendo i tubi. Stanno facendo i tubi nuovi, stanno mettendo. Hanno fatto la strada per un colabrù, non si può passare né a piedi né in macchina. Ed è quello il problema, perché la rete idrica è un colabrodo proprio, è tutta un'altra pratica, sicché quando c'è la falla che incomincia a perdere, riparano quel pezzo e magari stanno un giorno senza aprire l'acqua. Ma si sa, e invece devono smantellare tutto, altro che fibra essa, ma c'è arrivato la rete idrica, altro che fibra è, che poi questa fibra da trovare non funziona, perché proprio oggi un amico lì, alla Feroce, che abita lì, anzi, è stato lì, in Santo Solo 2 abita, dice, per carità, fibra dice che doveva essere veloce, invece è più lenta di una gioga, non è possibile ragazzi, ma comunque, avanti tu. A me la Feroce mi è giunto il tecnico a casa, l'ha misurata, ed è a 64 sta andando, oggi tu, se fibra questa, se lei me lo dice fibra, a fibra dovrebbe essere andare a 1000, dovrebbe andare, no a 64, a 1000 dovrebbe andare, no, ma ancora quella non ce l'abbiamo attaccata, allora mica fibra, mica direttamente che siamo su una linea e boh, non mi dica fibra. Agito, andare a cercare del mondo. Adesso vediamo quando completano tutti gli impianti in tutto Sassari. Adesso parte del Monte Rosello, la casa è fatta, no? Nella zona bassa, poi erano ultimamente gli ragazzi d'Eredda. Adesso non lo so dove sono, se sono alla parte alta di ragazzi d'Eredda o in qualche altra strada, non lo so. Vediamo un po' come te funziona questa fibra. Cosa vuoi che ti dica? Ripeto, stamattina un amico ieri doveva prendere un documento, ci ha piegato più di mezz'ora per riuscirci con la fibra. Ha preso e ha fatto disdetta. E oggi è dovuto andare alle poste, ha comprato una scarpa. fatto a 15 euro per spedire indietro il decoder che gli hanno dato loro, come si chiama, mouse o qualcosa che si chiama, non so come si chiama, con l'apparecchiatura grande che danno loro, e allo stesso tempo deve pagare per il distacco, non mi ricordo se mi ha detto 36 o 46 euro per il distacco, o se non funziona bene deve pagare furbo di sacanina. A me, io ho messo la team, sta funzionando benissimo, però ce l'ho a 64, ce l'ho, non ce l'ho a 64, 65 sale. E io ho detto, invece di andare a 64 dovrebbe la fibra, dovrebbe andare a 1000, non 64 o 100, l'ho preso. E mi ha detto, dice no, è una linea normale questa, anni e anni che ce l'abbiamo, va sempre a 100, va. E a me mi sta andando a 64. Pensa un po' di. Perché ancora evidentemente lì, ma lì sono passati adesso ultimamente a fare l'impianto di nuovo, perché a Sassari stanno facendo l'impianto dappertutto, e ormai stanno facendo in tutti i travi per mettere la fibra, ma evidentemente lì c'è un sistema vecchio che prima o poi arriveranno anche lì da quelle parti per fare l'impianto nuovo, e allora sarà diverso. No, da noi sono già passati qua a Santa Maria Pisa, sono già passati, devono solo collegarla e basta, non l'hanno ancora collegata, collegheranno, dice che collegheranno tutta assieme, la collegano. E allora se mi fa vedere la Sicilia, è andato a tutto usato, è una parola, non è possibile ragazzi, vabbè, è tanto le bollette arrivano e paghi, e devi dare ragione, vai Bacchi. Bisogna pagare giù, bisogna sempre pagare. Pagare. Funzioni tu paghi. E andare. Signori, ma chi se vi saluta perché se ne va giù a prendersi tutta la pappardella. Ciao Giulia, salutissimi, grazie alle quattro chiacchiere che l'abbiamo fatto, anche a Tore con la buonasera, sono stati i rispettivi correa familiari, e Bacchisi ho passo in correti e via. Riprendi Tore, ascoltati a dire e poi chiudo. Ok, ci sentiamo Bacchi, anch'io tra poco a il Mecciamelli, Danzura. Vabbè, dai, ci sentiamo domani, ok, riprendi giù. Ok, ciao Bacchi, grazie a te per la chiacchieratina, dai. Io ero tutta la sera qui con la radio accesa, ma l'ho sentito un'anima, l'ho sentito, pazienza, e cosa ci vuoi fare? Evidentemente non è a voglia la gente. Eppure con queste giornate, vabbè, oggi non era brutto, oggi già era bello, evidentemente la gente se n'è andata a passeggio. Anziché stare attaccata alla radio, pazienza, dai. Ciao di nuovo Bacchi, alle prossime, a domani, se coincide, avanti tu. Ok. Ci sentiamo Bacchi. Ciao. È capito giù, è così, loro per mettere la posta e tutto quanto lo faranno i collegamenti direttamente e tac, e poi sfrutteranno la linea della fibra, che la fibra dovrebbe essere a 1000. Cosa vuoi che ti dica tu? Io spero solamente che non sia una presa in giro questo sistema nuovo che vogliono fare o che stanno facendo. Cosa vuoi che ti dica? Che sarà così, perché ancora non è completa, cioè il discorso impianti eccetera, e magari più in là quando sarà tutto completo per tutto Sassari, allora la rinforzeranno, la faranno arrivare forte come deve essere, speriamo bene. Cosa vuoi che ti dica tu? Intanto Gabibiegno è sempre l'utente, sempre basta, sì, appunto, da voi non si vuoi lamentare manco, ma che vale, sempre ragionieri. Cioè a me, vai da un poco, a me mi devi durrà, a dicembre mi devi durrà, 5 bollette più 49 euro mi devi durrà, pensa un poco, e ce li ho tutti a dicembre, ce li ho, deve arrivare una lettera a fine mese, con chi sarete devo andare alla posta e ritirarmi i soldi. Oh, non è possibile ragazzi, guarda, non è possibile che a questo punto si possa essere così, poi non parliamo di burocrazia, ma la burocrazia è lunga che non finisce mai, che vergogna, l'Italia è proprio vasta mare, è vero, è tutta a pezzi, non è possibile, ma tu non ti devi arrabbiare, a chi sogniamo senza arrabbiare non compra il cuore, e non gli compra il cuore non mi vengono in vita, perché a tutti i musini non si arrabbiamo, come andare la vacca alla baciccia. Infatti, sì, non conviene neanche arrabbiarsi, perché tanto se va di mare e più di tanto non si arrabbiamo, però è di sopprendere un po' in giro, tutti dentro la stanno prendendo in giro, e ecco, e più così deve ne fare, e vabbè, se lo posso chiedere a maniera, l'operaio che è giunto ai nonghi della team, anzi non era della team, della cosa era, della siete, che mi ha fatto, collegato tutto, e me l'ha misurata, e mi ha detto che stava andando invece che a 100 a 64, ha detto che sta velocissima, anda, che andiamo via, ha detto che la fibra per andare bene deve andare a 1000, non a 100. Praticamente 64 megabyte, così è. 64 megabyte. E non è... un po' veloce, sì, però per andare bene devi andare a 100, devi andare per andarti bene, la linea è una linea normale, invece anda a 64, dice cosa di che ce l'ho distante, perché c'è cosa, ce l'ho su vicino al fine, ma chiedo che dato, agito, non è quello, no, lasciamo perdere, va. Che tracca, una linea tracca, dice, andiamo piano, pensa che andare a pieno ritmo, oh, non è possibile. Finito un poco di truffa in giro, che sei truffa a me, perché se tu prometti che devi andare a 100 e poi me la mandi a 64, per me, io questa la considero truffa, truffa agli utenti. Non sono stato molto alla lunga con questo operaio, non ha voluto durare né assai, anche se no, arrivederci, le dizia. Ehi, dove ho potuto non acquipano, è l'azienda casomai che deve preoccuparsi di queste cose, di mandare la linea a livello che deve essere. E l'operaio cosa ne sa, non conta niente, conta meno di lui, guarda, noi che siamo utenti, certo conta, manco di lui che fa il lavoro, si può immaginare, anche lui è un povero diavolo e non ha nessunissima colpa, per carità. Oh, che vergogna, c'è Robert Zenni, che l'Italia è tutta la riforma, da capo vi sapete. E cosa vuoi fare? Io faccio dei nocchi che hanno mani in bocca, ma è duro da ciambare numeri, e mi hanno dato una frumota, e mi hanno dato. Anche succede pure così, succede pure così. Ma che cosa ti vuoi fare? Siamo sani, che è meglio, dai, tanto chi dà ragione, noi già l'abbiamo e è piccio. Ma i svegliani, tanto ormai siamo abituati, vabbè, vuoi fare di laghi, paghiamo e basta. Ciao, ciao Luca. Sono Iaia. Ti provi, lo fate là, Luca, sempre fate provi, sì. Tutto a posto. Stavo chiamando poco fa. E poi dici, vabbè, dai, lo lascio acceso, questo è andato in camera da letto. Mi hanno chiamato al telefono, mi ha chiamato mia figlia da Cagliari. E quindi ho dovuto lasciarti 5 minuti, ma te l'ho richiamato, ma giù c'è una riposo, giù c'è il radio, sono andato a prendere la mia moglie. Vabbè dai, io mi sono ciamenni, ti devo lasciare, ciao Giulio, ciao Luca, alle prossime, a domani. Ok, ciao Tore, a domani, vai, ci sentiamo, magari un po' presto se possibile, ma chi no, mi stiamo andando a Flamengo, tutta la sera guarda mio stesso, non si sentiva nessuno, anzi ho sentito solamente presto, ho sentito a Gian Maria con forse era con Luca, ma Luca non lo sentivo, tu eri Luca che stavi facendo prove con Gian Maria stasera presto? Presto a che ora? 5:30, 6? Più o meno quell'ora, dai. Sì, ero giù con Gian Maria, non mi sentivi a me? Strano, ero con Gian Maria. vabbè, ciao dottore, dai, buona cena. Anche a me, tanto mi chiedo, anch'io vado che sta preparando la cena. Ok, vabbè, dai, allora chiudo, dai, ci sentiamo, ciao Luca. No, non ti senti buono, non ti senti buono per niente, proprio nulla, sai che non dire nulla. Nemmeno una sillaba sentivo, nulla, nulla di nulla. Ah, ma che ti intendo, evidentemente ti sei spostato allora sei in una posizione migliore. Bravo, ciao Luca, a domani, ciao, ci sentiamo. Amici, al baracchino o non PMR? No, è al baracchino, non PMR, non mi ho acceso io PMR, c'è solo una licenza a sentire BMR. E io sentivo a domani al baracchino e basta. Sentivo, a te non ti sentivo proprio per niente. Io non posso mica la foto l'antenna, l'antenna è sempre là, fuori, così com'è, come mi hai sentito altri giorni, è sempre lì l'antenna, boh, strano. Se ti sto dicendo che non ti sentivo, proprio niente, sai cosa vuol dire, proprio niente, niente, niente. Per cui, cosa vuol dire? Non lo so. Infatti ti ha chiesto se avevi stazionari e lui ti ha chiesto, tu l'hai risposto ma io non sentivo cosa dicevi. Vabbè Luca, ci sentiamo, dai, ciao. Ciao Giulio, scusa, mi sei rotto il microfono. Ok, vabbè, ci sentiamo, dai, ciao Luca, a domani. Ciao, buona cena, ciao. Prova, prova, ti senti.